Rai fa polemica ormai, ed è un'azienda che vive sotto i riflettori della stampa, della politica, per cui fa polemiche la vigilia, secondo me farà, ci saranno polemiche anche dopo. Dopodiché, francamente, io non ho mai capito perché dovrebbe far suscitare polemica Ferrara, così come ogni giovedì dovrebbe far suscitare polemiche Santoro, il martedì Flori. Se dovremmo abituarci a guardare la televisione con più distacco e con meno passione politica. Ma forse perché, dice anche ieri Ferrara, lo confesso, sono un po' schierato. Per qualcuno è un male, c'è questa idea che nella TV pubblica non si debbano dire delle opinioni, insomma. Non è l'unico schierato forse in Rai. Ma guardi, Ferrara è Ferrara, e quindi chi lo vedrà da stasera sa che ha davanti una persona che la pensa in un determinato modo, ma anche una persona che ha l'autorevolezza per pensarla da schierato. A me non fanno paura le persone schierate, mi infastidiscono di più quelle che dicono di non esserlo e che invece lo sono quanto gli altri. Neanche i 3.000 euro a puntata devono suscitare scandalo nel contribuente? Ma guardi, io su questa vicenda, come se il servizio pubblico ha un finanziamento misto, come le sta di canone e pubblicità, quindi deve stare sul mercato e paga in relazione alla resa che pensa di avere anche pubblicitariamente. Quella dove va in onda Giuliano da questa sera, una fascia di ricavi molto molto interessante, quindi chi va in quella fascia viene pagato. E invece l'altra vicenda, leggevo sul Messaggero oggi, riguarda Vittorio Sgarbi, il cui programma viene attribuito a lei, tra l'altro questa frase, non partirà mai secondo lei in Rai il programma. No, io non so chi mi attribuisce questa frase. Io tra l'altro vorrei che partisse. Una volta il giornale mi fece un'intervista e io feci auguri a Sgarbi di avere lo stesso successo di Saviano, e poi quell'intervista non fu mai pubblicata, forse pensavano che io mi scagliassi contro Sgarbi. No, io dico Sgarbi non partirà mai, o è difficile che parta, perché sento che deve partire già da troppo tempo e ogni volta la data di partenza slitta, vedo tanta confusione. Sgarbi che dice che il contratto è firmato, mentre invece il contratto ancora non è stato firmato. Doveva partire il 1° aprile, adesso è il 1° aprile, l'altra volta il direttore generale ha detto che già è slittato al 14 aprile. Poi a un certo punto i mesi dell'anno scorrono e quella che noi chiamiamo la garanzia di primavera, prima dell'estate, finisce, quindi ormai siamo... Questo io dico, probabilmente non partirà. Invece, ma questa vicenda dei conduttori alternati, noi abbiamo avuto anche il senatore Butti che ci ha spiegato come finirà questa vicenda dei conduttori alternati in Rai, dei talk show, secondo lei? Ma guardi, lei poco fa parlavamo di Ferrara. Come appunto di Ferrara schierato. Ora, Ferrara sul Foglio l'ha definita una grandissima stupidità. Io sono d'accordo con lui e quindi penso che molti si sorprenderanno quando Ferrara, io ne sono convinto, in una di queste sere criticherà proprio quegli indirizzi che Butti vorrebbe far varare alla Commissione parlamentare di vigilanza. Una stupidità. Toto, prima puntata di Ferrara, lei non lo sa, no, Ferrara dice non dico di cosa parlerò. Lei cosa si aspetta? Un botto, polemiche? Guardi, mi sembra che è giusto che non dico. Ferrara fa una striscia quotidiana. E quindi, conoscendolo, non farà una striscia quotidiana prefabbricata, vedrà cosa accade nella giornata e dicerà spesso anche all'ultimo minuto di che cosa occuparsi. L'ultima domanda riguarda Vieni via con me, Saviano, ritorna in Rai, secondo lei è giusto che ritorni e se ritornerà con meno polemiche rispetto alla prima edizione? La cosa fantastica di Saviano è che le polemiche vengono direttamente dalla Rai e la Rai mise i bastoni tra le ruote a quella trasmissione. Io credo che nessun editore si priverebbe in autunno di una ripetizione di Vieni via con me, che è stata la trasmissione più innovativa negli ultimi 10 anni, con degli ascolti che nessuno poteva mai immaginare così alti. E quindi io credo che Saviano il Fazio ad autunno li rivedremo. Sarebbe un suicidio per la Rai non rifare Saviano e Fazio. La ringrazio, buona giornata per essere stato con noi. Nino Rizzonervo è consigliere di amministrazione della RAI. Staremo a vedere allora se stasera, già dalla prima puntata, Giuliano Ferrara creerà polemiche. Guardatelo se volete, se no c'è il telecomando. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi di cosa parliamo? Parliamo di evasione fiscale. Ebbene sì, perché il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha detto in un'affermazione sicuramente anche molto ambiziosa: entro 10 anni sconfiggeremo il fenomeno dell'evasione fiscale. Magari vuol dire non proprio azzerarlo del tutto, però insomma sconfiggere, cercare di eliminare quei 125 miliardi di euro stimati di evasione fiscale l'anno, magari ridurli a poco, potrebbe essere già un azzeramento del fenomeno. Ci credete? Questo è il tema che mettiamo nel nostro sondaggio. Credete a questo progetto ambizioso? 10 anni per sconfiggere l'evasione fiscale? Ci sono anche nuovi strumenti che vengono forse verranno presto utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, primo fra tutti quello di scovare, osservare, cercare di capire cosa fanno gli italiani contribuenti nei social network, per esempio in Facebook, nei loro profili. Votate su Radio24.it il sondaggio, oppure intervenite in diretta se volete, 800 24 00 24. Di evasione fiscale parliamo tra pochissimo. 24 mattino. E allora eccoci qua, le 8:33 minuti. Parliamo di evasione fiscale oggi nel nostro sondaggio, perché l'ambizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in conferenza stampa la scorsa settimana, finita un po' inspiegabilmente, secondo me, nelle pagine interne dei giornali, è quella di darsi 10 anni, entro 10 anni porre un freno totale, sconfiggere il fenomeno, almeno nelle sue forme più importanti, dell'evasione fiscale. Ci credete? Ci riuscirà? Questo il tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Tra l'altro, simpaticamente, qualcuno già via sms al 349-238-6666 ci scrive: bah, io ho la fede, credo nei miracoli, perché non credere anche in questo? In ogni caso lo scetticismo prevale, al 70% dei nostri ascoltatori dicono: ma come? Come si fa a eliminare l'evasione fiscale? Beh, per esempio, Befera l'ha anche detto, con nuovi strumenti, a parte lo spesometro, il redditometro, di cui se vorrete parleremo, c'è anche gli accertamenti sui social network. Titolava al secolo XIX la scorsa settimana: il fisco forse spierà Facebook per stanare gli evasori, o Twitter, o tutti questi social network. Attenzione, cari contribuenti. Allora, ne vogliamo parlare con Roberto Ippolito, scrittore, ha scritto tra l'altro Evasori, edito da Bonpiani. Buongiorno Ippolito, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno. Voglio salutare anche Leonardo Facco, il segretario di quel movimento libertario che si definisce così anche su internet: la proprietà è un diritto naturale, le tasse sono un furto. Facco, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Senta Ippolito, vorrei iniziare da lei. A parte, non so, ambizioso l'obiettivo di Befera, forse sì, forse dire in 10 anni sradichiamo l'evasione fiscale è un po' troppo. Ecco. Beh, è un obiettivo bellissimo, però comincerei oggi pomeriggio a fare qualcosa. Nel senso che le ultimissime analisi fornite dal Ministero, dal Governo, alla fine della scorsa settimana, ci dicono, secondo me, senza alcun dubbio, che siamo in un momento pesantissimo di aumento dell'evasione fiscale. Vi posso dare un paio di numeri facilmente per darvi l'indicazione. Ce li dia, si riferisce anche a quello che ha pubblicato Il Sole venerdì? Che ha pubblicato Il Sole con qualche aggiuntina di... Allora, cominciamo da quelli che ha pubblicato Il Sole. Cioè Il Sole ci dice una cosa: il gettito totale... Sì. Dei contribuenti italiani che hanno presentato la dichiarazione IRPEF è più o meno stazionario, aumenta dello 0,2%. E dobbiamo tener conto indubbiamente che siamo in un periodo di crisi economica, quindi tanta gente è andata a marcia indietro, questo alcun dubbio, però guarda un po' che il gettito dei pensionati, cioè le tasse che i pensionati hanno pagato sono aumentate del 5,8%. Quindi siamo un paese che si regge onestamente sui pensionati. Sui pensionati. I ricchi, infatti, i ricchi d'Italia calano del 7% l'ultimo dato che pubblicava il Sole 24 Ore è significativo: solo lo 0,17% dei contribuenti dichiara oltre 200.000 euro. È una spia, guardiamoci intorno e non credo, come dire, che l'Italia sia un paese dove la ricchezza si ferma allo 0,17%. Beh, io vi capovolgo l'analisi: il numero dei contribuenti che ha pagato tasse zero, così è assolutamente chiaro, è 10.500.000, quindi siamo al 25%. Un contribuente su quattro ha pagato imposte zero. Per quanto riguarda gli aspetti, secondo solo, il numero dei poveri censiti dall'Istat è soltanto di 2.700.000. Qualora noi vogliamo considerare la povertà in una, come dire, valutazione più ampia con altri parametri, è sempre l'Istat, non sono io, che ci dice che i poveri sono 8.078.000, quindi molto molto meno di quei 10.500.000 italiani che, grazie anche a esenzioni, a detrazioni, a spese mediche, tutto quello che vogliamo, dichiarano zero. Però Ippolito, pagano zero, ecco, pagano zero. Ippolito, le chiedo, prima di vedere cosa ne pensa Facco, iniziare da oggi pomeriggio, per esempio, il nuovo fronte è quello di spiare Facebook, controllare anche i social network. Sì, devo dire però con lo stesso pregherei di non usare questo verbo spiare, No. Nel senso che anche il vigile urbano che vede passare uno con rosso spia l'automobile. Devo dire che il secolo XIX lo metteva tra virgolette, effettivamente. È insopportabile essere controllati, questo non c'è alcun dubbio, però è altrettanto insopportabile che non facciamo il nostro dovere di contribuenti. Allora, i dati che abbiamo appena sintetizzato ci dicono che c'è una discrepanza mostruosa in Italia tra la ricchezza reale e la ricchezza dichiarata. I falsi poveri sono molto di più dei tantissimi poveri che esistono, quindi c'è una discrepanza, una differenza, un divario tra il tenore di vita che facciamo e il tenore di vita che dichiariamo al fisco. Questo è senza alcun dubbio, dal mio punto di vista, purtroppo in questi ultimi mesi tutto questo è sicuramente peggiorato, ma non c'è alcun dubbio che il divario c'è. Per questo sono necessari tutti gli strumenti possibili di controllo. Snidare. Facco, le piace invece il termine spiare? Lei la vede come uno stato intrusivo, come una spectre, come ha definito il Foglio intervistando Befera, il quale due giorni fa ha detto: ma che è una spectre, lasciamo stare, insomma gli italiani sono con noi e bisogna sradicare questo fenomeno. Facco. Sì, le rispondo subito di sì, ovviamente. Qui siamo allo stato della spia e della delazione, questa è l'Italia. E prima di affrontare la questione, giustamente il signor Ippolito diceva che questo è un paese che si regge sulle pensioni, il che la dice lunga sul fatto che questo qua sia un paese che abbia futuro oppure no. Secondo me di futuro non ne ha. In merito alla dichiarazione di Befera, comunque, io penso che un breve ragionamento lo si possa fare. Intanto, il primo è che sarebbe ora di riprendere e ripescare George Orwell e andare a rileggerselo, perché quello che raccontava lui in merito al Grande Fratello non è sicuramente fantascienza, ma è anzi l'obiettivo di ogni tiranno, e dato che lo Stato è un tiranno, l'obiettivo è quello di avere una massa di proleti incapaci da curare e soprattutto ai quali togliere soldi. Il secondo è che sempre di più, come diceva Hoppe, invece la democrazia si avvicina a un concetto vero e proprio di tirannia, e più passa il tempo più ci accorgiamo che è così. Citava prima dei dati il signor Ippolito, io gli voglio ricordare che il fatto che l'evasione aumenti non fa che, dato che ci sentiamo ogni tanto io e lei, e non fa altro che dimostrare quello che io vado dicendo da tanto tempo, che più aumentano le tasse più aumenterà l'evasione fiscale, e anzi aumenta soprattutto la disaffezione rispetto al fisco in genere. E questo è quello che succede, ma succede che ci comporta che cosa questo? Comporta conseguenze drammatiche, come ad esempio il fatto che gli imprenditori non solo non vengono ad investire in questo paese di matti, ma da questo paese di matti se ne vanno via, sì. Che ovviamente gli evasori aumentano, perché basta conoscere, voglio dire, quattro concetti sulla curva di Laffer, che per capire che laddove la pressione fiscale è al 70% uno non ha tanta voglia di pagare le tasse per mantenere magari 5 milioni di parassiti che vivono di soldi pubblici, ed infine la conseguenza ulteriore a questa è che l'Italia si è trasformato nel paese del io ti fotto, cioè dove la truffa è continua. Queste sono le conseguenze delle mentalità però all'Ippolito. Facco, al di là della mentalità all'Ippolito, si metta un attimo lei, Facco, nei panni di Befera. Le voglio fare proprio del male oggi, no? Questa mattina, cioè, no. Veramente questo è un insulto. No, vabbè, no, adesso non esagere. Si metta nei panni di Befera che trova 125 miliardi di evasione fiscale stimata, visto che non è Befera che deve fare le leggi per ridurre le tasse, su questo si può discutere, però non è lui. Lui è colui che deve recuperare. Cioè, a lei non darebbe fastidio? Ma sapere... le do un dato soltanto. No, dico, ma a lei Befera, Facco, non le darebbe fastidio vedere che ci sono evasori fiscali e quindi troverebbe tutti gli strumenti per recuperare l'evasione fiscale? Guardi, io sono un libertario, non mi chieda di pensare come Befera, proprio performamenti non ce la faccio. Non ce la fa. Io le voglio solo dare un dato, però. Qui si continua a parlare di questo famoso 100 miliardi di euro che sarebbero appunto più o meno 125, pare. Benissimo. Ecco, di questi 125 miliardi, io le ricordo che circa 100 miliardi è il fatturato della mafia. Anzi delle varie mafie. Ci sono decine di dati in questo merito che convergono su questo punto. Ora, che su 125 miliardi 100 miliardi siano evasi dalla mafia significa che c'è un problema di ordine pubblico eventualmente, perché è chiaro che le mafie non dichiarano assolutamente nulla. Non solo, dopodiché sull'evasione fiscale le consiglio di andare a vedere un altro dato, quello che divide geograficamente l'evasione fiscale in questo paese. Dica lei dove sta la gran parte dell'evasione fiscale. Ma per arrivare a dire che cosa? Per arrivare a che cosa, in che senso? No, mi dice, al sud c'è l'evasione fiscale rispetto a... Per arrivare al fatto che il problema non è quello del dargli a chi crea ricchezza, all'imprenditore che cerca di salvaguardare il frutto del proprio lavoro, ma che il 75% dell'evasione fiscale è legata a attività delinquenziali e un'altra parte di questa evasione fiscale è legata ad un'area geografica dove, guarda caso, sono radicate queste attività delinquenziali. Questa è la questione. Va bene. Sentiamo Vincenza da Napoli, la prima ascoltatrice. Buongiorno, Vincenza. Buongiorno, dica. Sono in diretta da Napoli, non sono per niente d'accordo con tutto quello che ha detto il signor Facco, non posso usare il verbo volgare che ha usato lui, ma lui secondo me rientra in questa tipologia, perché se vogliamo parlare di democrazia innanzitutto le parole dovrebbero essere più semplici per i radioascoltatori. Non voglio arrivare a massimi sistemi, ma i metodi per combattere l'evasione fiscale ci sono già e sono stati ampiamente dimostrati. Io sono una project manager di un grande gruppo bancario e mi occupo di programmi informatici. Mastichiamo milioni e milioni di bonifici e di assegni. Abbiamo comunque incroci e controlli per le segnalazioni antiriciclaggio. Evidentemente, se si tornasse innanzitutto su quel famosissimo rapporto di conto corrente unico da dichiarare per i liberi professionisti, quale rapporto su cui si basano le entrate del loro lavoro, sicuramente ci potrebbe fare molto. Ma di più, mi dispiace, sto accompagnando i bambini a scuola, ma sono comunque appassionata perché sono una lavoratrice dipendente che insieme ai pensionati mantiene gran parte di questa nostra bellissima Italia. Se tutti quanti pagassimo le tasse, per un'operazione semplicissima matematica che possono comprendere tutti, gli industriali e gli imprenditori non pagherebbero il 70, il 50%. Se la sentisse Giannino in questo momento, se la sentisse il nostro Oscar Giannino, questo è il grande tema dibattuto col quale io litigo con Oscar, ovviamente vengo sotterrato da valanghe di improperi simpatici da Oscar. Se pagassimo tutti le tasse si pagherebbero meno tasse. No, dice Oscar Giannino, e no, dice Leonardo Facco, sì, dice Roberto Ippolito. Chi lo sa, dopo il traffico parleremo magari anche un po' di spesometro, redditometro, perché arriva il redditometro da nuovo da aprile, lo spesometro, quello che bisogna denunciare per gli acquisti superiori ai 3.600 euro. I negozianti dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i codici fiscali delle persone Allora è un sistema vessatorio oppure no? Tra poco. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? 8:47 minuti, allora il 71% è scettico sulla possibilità di sconfiggere l'evasione fiscale in 10 anni. Ippolito, intanto, se vuole rispondere, insomma, all'impostazione che le ha attribuito Leonardo Facco. Si è intervenuta la signora, ha detto delle cose assolutamente importantissime. Però c'è sempre un equivoco, mi dispiace dirlo, in questo caso devo annotarlo al conduttore. Sì. Il fatto che si voglia far pagare le tasse non ha una relazione con l'entità, la quantità di servizi di cui vogliamo usufruire. Quella è una scelta che come cittadini, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, facciamo. Se vogliamo tanti servizi, le tasse dovranno essere più alte, ovviamente scomputando sprechi, truffe, eccetera, eccetera. Però se andiamo al supermercato pagheremo di più, se compreremo di più, questo dobbiamo mettercelo in testa. Se poi vogliamo rubare la roba al supermercato è l'equivalente del... Sì, Ippolito, però detto che stia tranquillo, d'altro io sono con lei, quindi se ha capito male siamo 2-1 contro Facco, ma Facco si sa difendere. Però Ippolito, l'impostazione di Facco è questa: un paese in cui c'è il 70% di pressione fiscale, nel quale dobbiamo mantenere 5 milioni di come li ha definiti, non lo so, dipendenti pubblici. Che che uno non è molto incentivato, o meglio, se vede una pressione fiscale dice: e io che faccio? Ti fotto. Allora, i disincentivi a pagare correttamente le tasse, a fare correttamente il proprio dovere, ne possiamo trovare un'infinità. È chiaro che poi sta alla coscienza civica di ognuno di noi decidere i comportamenti. Però ritorniamo un attimo al tema vostro, per essere più chiari, che è quello Facebook sì, Facebook sì, no. Sì. Allora, perché Facebook è necessario? A parte il fatto che guardando Facebook non si spia, perché tutte le informazioni contenute su Facebook sono messe spontaneamente, certo, dagli aderenti. Certo. Quindi se uno vuole ostentare la propria Ferrari, dopodiché possiamo pure ritenere che quella foto in cui ostenta la Ferrari è una Ferrari presa in prestito, quindi non è obbligatoriamente necessariamente la prova di un elevato reddito. Però siamo pieni di casi in cui possessori di yacht poi chiedono i buoni scuola Befera nella sua intervista al Foglio l'ha detto, per esempio riguardo al nuovo redditometro, no? Controlleremo i leasing di auto, barche, iscrizione a centri ippici, circoli esclusivi, acquisti in case d'asta, viaggi turistici costosi. Lo sapete a proposito del leasing, che buona parte di chi usufruisce il leasing paga una rata che in base alla dichiarazione fiscale dei redditi non potrebbe permettersela? No, ma infatti, e Befera dice li controlleremo, ma il contribuente avrà tutta la possibilità di provare che quanto da noi verificato non sia avvenuto. È sempre l'inversione dell'onere della prova, che questo è un altro strumento. No, scusate, qui dobbiamo fare, chiedo scusa, un pochino sì. Di ordine. Ovviamente l'immagine che ognuno dà di noi con il tenore di vita, appunto ho fatto l'esempio prima di un'automobile in una fotografia, oppure vacanze ai Caraibi, non sono automaticamente la prova. Però se io a un'agenzia di viaggi vado e compro un pacchetto, la signora che è intervenuta diceva c'è la tracciabilità dei pagamenti, sì, basta sì. Vedere il bonifico. Lì ho la prova che ho comprato un pacchetto da migliaia di viaggi, da migliaia e migliaia di euro, e poi vado a dichiarare redditi bassi, bassi, bassi. È chiaro che c'è un contratto, quindi qui sì, si tratta, sì, come dire, di un confronto. No, ma è chiaro, di andare a controllare quello che uno anche è il tenore di vita, magari che viene messo in mostra anche nei profili tipo Facebook. Voglio sentire Spartaco dalla provincia di Pisa che ci ha chiamato. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io vorrei portare il mio contributo sulla lotta all'evasione fiscale. Io sono considerato un grande evasore per il 30% dei giudici e il fatto non sussiste per il 70% dei giudici. Quindi, cioè, che vuol dire? Scusi. Le spiego, si tratta dei magazzini fiscali che il dottor Befera conosce benissimo, che è una bolla che sta gonfiando e continuerà a gonfiare l'evasione fiscale sul discorso IVA già pagata, ma per un... No, ma che vuol dire, che vuol dire 30% dei giudici SIV? Glielo spiego, si tratta di merci di importazione extracomunitarie che quando arrivano si può usufruire del cosiddetto magazzino IVA fiscale. Sì. Cioè, no, ma mi scusi Spartaco, non ci capiamo. Io non le sto chiedendo la questione tecnica. Che vuol dire il 30% dei giudici hanno detto? Cioè lei è stato processato. Siamo già andati in tribunale con 20 sentenze, sì, di cui 17 assolti e 3 condannati. Ah, ecco, stesso problema, stessa cosa, stesso tutto, ma non ci sono solo io. Ci sono 1000 aziende in Italia che stanno soffrendo questo problema, sono a conoscenza tutti, tanto è vero che c'è stato un emendamento presentato bipartisan, firmato dall'onorevole Garavaglia, dall'onorevole Legnini e dall'onorevole Izzo, presentato, messo lì, decreto mille proroghe, bocciato. Perché? Perché non ci sono più soldi, perché chi viene condannato viene messo nel bilancio attivo dello Stato e per poterlo tirare fuori non ha altra via che lo Stato trovare soldi. Spartaco, io la ringrazio per questa, però è una cosa un pochino tecnica che ci porta un pochino fuori dalla discussione. Io ho anche 30 secondi e voglio chiudere allora con Leonardo Facco. Facco, la tranquillizza il fatto che Befer abbia detto se per lo spesometro, cioè denunciare, dare il codice fiscale di chi spende oltre 3.600 euro, dice Befera, beh, ma intanto stiamo vedendo, forse conserveremo l'obbligo solo per chi paga in contanti, togliendo carte di credito, eccetera. No, mi consolerà il fatto che lo tolgano del tutto, cosa, che la tolgano, vabbè, insomma, si accontenti, Facco. Ma io voglio dire, sono rigoroso nelle idee, voglio dire, non è che redditometro, spesometro, questa cosa del 3.000, tutto quanto porterà ad una maggiore evasione. Un'altra cosa sarebbe da raccontare su come vengono fatti certi controlli. Il principio del solve a tre pete è diabolico in questo paese. Comunque detto questo, guardi, noi potremmo confrontarci solo sui dati nel tempo. Dall'ultima volta che ci siamo sentiti un anno fa ad oggi, le cose sono andate esattamente nella direzione in cui dico io. Quindi la realtà è che in questo paese servono un po' più di Spartaco, voglio dire, perché Spartaco era quel gladiatore romano, se non ricordo male, che si è rivolto degli schiavi. Sì, e oggi in Italia chi paga il 70% di tasse, cioè chi deve dare i 7 decimi del frutto onesto del proprio lavoro, ha una banda di briganti, perché questo è quello che succede se leggiamo le cronache, che ci danno servizi, come dicono anche qui le inchieste, tra i peggiori in assoluto in giro per il mondo. Beh, di fronte a questo, voglio dire, che cosa vogliamo? Io non voglio vivere da schiavo. È chiaro che nel momento in cui mi stanco, glielo dico chiaro e tondo, io non ho più voglia di stare qui a menarmela e a combattere con queste cose, prendo e me ne vado, perché non esiste oggi il paradiso terrestre nel mondo, ma ci sono decine e decine di paesi che sono meglio di questo. Ci fermiamo qui, grazie a Leonardo Facco e Roberto Ippolito per essere stati con noi. Continuate a discutere su Facebook nel nostro 24 mattino, salutando Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Do l'appuntamento a domani.